La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Un'ascoltatrice di 40 anni scrive che si è innamorata di un ragazzo di 20. È bellissimo. Un incrocio tra Al Pacino giovane e Shirley Temple. Ha i boccoli naturali corvini perché suo padre è africano. Ha un fascino irresistibile, ma sembra timido. Ci mette un'eternità a parlare. Io non so che fare. Sono molto più grande di lui, anche se non lo dimostro. Lo so, dovrei mantenere le distanze, ma invece lo vorrei toccare, abbracciare e passare il tempo insieme a lui. Sento tra noi sintonia e allegria. Come devo comportarmi? Lui fa allusioni, ma non prende l'iniziativa. Mi dai un consiglio? Ma sei così ingenua che forse questa storia ci sarà e sarà bella. E mi riferisco alla tua cara ingenuità nello scrivermi. Ma ti pare che io, da qui, ti possa dare un consiglio? Solo tu sai l'atmosfera che c'è fra voi, se è un desiderio sordo oppure se senti un eco anche piccola piccola dentro questo ragazzo. Le difficoltà le sai tutte, e anche le gioie. Io, per il mio carattere, mai. Per una forma di discrezione disperata, proprio avendo il doppio dei suoi anni, aspetterei che fosse lui a dare dei segni. Certo, se la cosa dovesse succedere, una cosa sola vi può salvare finché durerà: il segreto. Perché se un uomo di 40 anni, che dico anche di 70, si mette con una di 20, viene considerato normale. Ma tu passeresti per l'orchessa, la seduttrice, che dico, la corruttrice di un ragazzino. Anche se a 20 anni un uomo è un uomo, ovvero un essere umano completamente formato. E se non lo è a 20 è difficile poi che lo diventi dopo. Ma sono belli gli amori clandestini e i dolori che portano, per quanto taglienti, credo che non uguaglino la gioia di essere insieme in qualche rifugio segreto all'insaputa di tutti, mentre all'esterno infuria il mondo. E le regole. Cara Barbara, in che modo posso stare vicino al mio ragazzo che ha appena perso suo padre? Non ho mai vissuto un lutto vero e non so come si fa. Anche per lui è la prima volta. Dammi un consiglio. Luca. Non esiste, Luca, un modo di comportarsi per stare vicino nel lutto. Il modo è uno solo: volergli bene. E quello te lo può insegnare. La tua sensibilità, il tuo intelletto d'amore, di attimo in attimo ti diranno qual è il momento di essere discreti, quando ci vuole l'abbraccio e quando il silenzio. Chi vuole bene è naturale, non è mai impacciato. E la misura dell'amore è quanto puoi prendere su di te il lutto dell'altro. È tutto in quelle due parole che hai scritto tu: stargli vicino. Che vuol dire? Non imporsi un atteggiamento luttuoso che già smaschera l'indifferenza e né volerlo rallegrare per forza. Stargli vicino, accanto a lui, in lui. Nella verità del tuo dolore, così si fa, momento per momento. Amare con semplicità, con fervore e tenere anche presente che nel dolore vero non c'è la continuità aritmetica. Ci sono dei momenti in cui si scoppia pure a ridere. Ci sono delle piccole tregue e anche quelle è bello farle insieme. La guardiana del faro. Oggi mi va proprio di parlare di Colette, che è stata una grande scrittrice francese e anche una grande persona. Il nome intero era Sidonie Gabrielle Colette. Era nata a Saint-Sauveur in Borgogna nel 1873 ed è morta a Parigi nel 1954. Colette